6. Ascolta e controlla. 1. Scriverai a Nicola? Gli ho già scritto. 2. Avete risposto a Maria? No, non le abbiamo ancora risposto. Lo faremo domani. 3. Piero, devi telefonare al direttore? Sì, gli devo telefonare subito. 4. Piero, puoi telefonare al direttore? No, non posso telefonargli. 5. Ragazzi, potete raccontarmi cosa è successo? Ci dispiace, non possiamo. È un segreto. 6. Avete obbedito ai vostri genitori? Purtroppo gli abbiamo disobbedito. 7. È piaciuto lo spettacolo al preside? Sì, gli è piaciuto molto.